banda, arriva la banda, arriva la banda, coi suonator, coi suonator. Oh Caterina, Caterina che batti cuor. Oh Caterina, Caterina che batti cuor. Il capobanda, il capobanda, il capobanda, i bottoni d'or, sorride ognò. Oh Caterina, il capobanda, il tuo grande amor. Oh Caterina, il capobanda, il tuo grande amor. Eccoli qua, son tutti qua, sol la sol mi do re mi fa. Giunge il tamburo come un tuon. È lui, è lui, è lui, sì sì è proprio lui. È il tamburo principale della banda d'arpori, che comanda 550 pizzeri. Che passion, che emozion, quando fa bom bom. Guarda qua, mentre va, le oche fan qua qua. Le ragazze nel vederlo diventan timide, bella figlia dell'amor, schiavo son, schiavo son dei vecchi tuoi. Passa la banda, passa la banda, poi va cantù, poi va cantù. Oh Caterina, ma il tuo amor non va avanti più. Oh Caterina, ma il tuo amor non va avanti più. Forza Luigi, forza Luigi, forza Luigi, che c'è il tramvai, che c'è il tramvai, che c'è il tramvai. Lui con un piede nel binario sta in mezzo ai guai. Lui con un piede nel binario sta in mezzo ai guai. Fermate il tram, spostate il tram, scendono tutti che baccam. E lui con calma e serietà cerca la banda dove sta. Trovator con la semiramide, bella figlia dell'amore.